Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo in avvicinamento a quello che è il Ferragosto, però abbiamo ancora un paio di puntate da trascorrere assieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai ascoltatori. Allora, anche oggi Gianluca ci vuoi raccontare una vicenda un po' articolata, ma aprici gli occhi su quello che accade in questo nostro mondo. Sì Francesco, tante volte abbiamo affrontato le situazioni che d'altronde riguardano la quotidianità, penso, di tutte le famiglie, ovvero delle famose telefonate, dei call center a casa, le telefonate commerciali, Green Network, Eniel, un po' di tutto, c'è gente che ne riceve 20 al giorno. Qua raccontiamo la disavventura, non vorrei dire avventura, di una nostra socia veneziana, la quale, diciamo, secondo noi ha potuto assistere forse a una novità, a una evoluzione, o meglio a una involuzione di queste tecniche. In buona sostanza, la signora in questione un giorno, questo ad aprile ancora, ha ricevuto la telefonata di Green Network, è una compagnia appunto che offre fornitura di gas ed energia elettrica. L'azienda ha fatto una proposta che la signora ha considerato allettante e quindi ha detto: va bene, mi va bene tutto, mandatemi però il contratto a casa, e perché voglio vederlo, e se mi va bene lo firmo. Il giorno dopo gli arriva il contratto, la signora decide di non accettarlo, fa subito il recesso e teoricamente la situazione dovrebbe essere finita lì e la signora dovrebbe ritrovarsi ancora con Enel, con cui era anche precedentemente. Sì. Fatto sta che però in questo periodo, in qualche giorno dopo la telefonata, però Enel chiama la signora per comunicarle che, a quanto risulta, insomma, lei dovrebbe essere passata a Green Network. Per non farla troppo lunga, la situazione un po' si è sistemata, la signora ha detto: no, io ho mandato il recesso, e insomma ha continuato a ricevere le bollette di Enel, sebbene Green Network, così in modo un po' strano, ha continuato comunque a chiamarla e addirittura a mandarle delle lettere con le quali la ringraziavano per essere entrate nella compagnia, anche se poi alla fine non hanno mandato alcuna bolletta. Diciamo, fin qui non dico normale amministrazione, ma insomma, diciamo, degli escamotage che abbiamo sentito già altre volte. Però la novità è stata questa: la signora un giorno, esattamente qualche giorno fa in realtà, molto di recente, ha ricevuto la telefonata di un sedicente responsabile di un'associazione dei consumatori. Non è la nostra, ma non facciamo il nome dell'associazione. E appunto si è presentato come responsabile di questa associazione, si è mostrato molto, si è mostrato a conoscenza della situazione e praticamente ha detto alla signora: noi sappiamo che lei in questo momento ha in essere due contratti con due fornitori diversi. E la signora chiaramente si è stupita, ha chiesto come è fatta a saperlo, e il sedicente responsabile dell'associazione ha detto: noi lo sappiamo dalla polizia postale, perché ci fornisce tutte queste indicazioni. Francesco, sottolineiamo che questo non succede assolutamente, lo facciamo subito, ma penso che sia chiaro, insomma, non riceviamo certo le telefonate della polizia postale per questi motivi. In ogni caso, la signora ha, diciamo, un po' tergiversato, però, diciamo, dopo mezz'ora di telefonata ci ha un po' creduto a questo racconto, al che chi stava dall'altro capo del telefono gli ha proposto una cosa incredibile, gli ha detto: se vuole signora, possiamo sistemare la situazione facendo il contratto con un'altra compagnia, Illumina, e che così lei può tirarsi fuori da questo impasse, non ha più due contratti e fa questo contratto con questa compagnia. La signora a questo punto ha creduto, diciamo, al suo interlocutore, evidentemente molto bravo, ha registrato la telefonata per Illumina e poi ha messo giù, quindi teoricamente tramite l'associazione dei consumatori dovrebbe essere passata a questo nuovo operatore. Sì. Fatto sta, insomma, Francesco, la facciamo breve: qualche giorno dopo lo stesso operatore ha richiamato la signora, si è presentato con il nome di un'altra associazione, perché si era dimenticato quella che gli aveva detto precedentemente, evidentemente. Mm-hmm. Quindi ha fatto anche questo errore qua, che la signora, insomma, ha capito di trovarsi di fronte a una truffa. Gli ha proposto un'altra registrazione, perché diceva che quella precedente non era andata a buon fine. Insomma, a questo punto la signora ha messo giù e ci ha contattato, perché, insomma, diciamo, qua ci troviamo di fronte proprio a venditori che non hanno più limiti. Praticamente ci troviamo di fronte a una situazione in cui una persona si presenta come associazione dei consumatori per proporre un contratto. capisci che siamo arrivati, insomma, alla frutta, possiamo dire, sì, da questo punto di vista. Quindi la signora adesso dovrebbe avere la sua corrente elettrica giusta, normalmente, però voi che cosa pensate di fare? Allora, a questo punto noi attendiamo di vedere se per caso, in qualche maniera, alla signora, insomma, la signora è stata portata a un altro gestore. Crediamo che non sia così, crediamo semplicemente che l'operatore questa volta si sia un po' incartato, come si suol dire, quindi crediamo che alla fine non ci sia nessun tipo di contratto nuovo e che la signora continui a pagare le bollette all'Enel. Chiaramente saremo prontissimi a intervenire nel momento, certo, in cui, come facciamo sempre, nel momento in cui invece ci fosse un contratto stipulato. A questo punto siamo anche pronti, se capiamo chi è la compagnia che si è comportata in questa maniera, anche a pensare a qualche azione, diciamo, più forte, perché qua stiamo parlando proprio di truffe vere e proprie. Esatto. Cioè, che onestamente coinvolgono e possono mettere in cattiva luce anche associazioni come la nostra, che insomma in realtà fa tutt'altro che, certo, proporre contratti per l'energia elettrica o per il gas. Ecco, quindi non fidatevi, non c'è nessuna associazione di consumatori che vi chiede di firmare contratti o vi propone, insomma, delle cose di questo genere. Attenzione, fate tesoro di queste informazioni che possono essere utili a non farvi trovare con una serie di beghe infinite. Va bene? Grazie quindi all'Adico, grazie a Gianluca Codognato per averci informato adeguatamente anche su questa vicenda. Ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.